Incontri di Gianfranco Fabi. Con la voce intramontabile di Luciano Pavarotti iniziamo l'incontro di oggi con Giovanni Anzani. Buongiorno dottor Anzani. Buongiorno a lei. Giovanni Anzani, presidente amministratore delegato di Polyform. Abbiamo iniziato con Nessun Dorma, la famosa aria dalla Turandot di Puccini. Nessun Dorma, ma alla fine, perché alla fine vinceremo. Cosa le ricorda questo brano? Innanzitutto un grande personaggio che ci ha rappresentato in giro per il mondo. Un'eccellenza del Made in Italy, se vogliamo, no? Di cui siamo orgogliosi, e sta diventando un po' il nostro modo di comunicare, cioè stiamo attraversando momenti molto difficili e direi chi meglio di un Pavarotti che ci dà una scossa, no? Sia del merito, sia della sostanza, sia anche dell'impeto che può avere. Esattamente, cioè, l'Italia è un paese straordinario, un paese unico. Al mondo abbiamo delle grosse capacità che possiamo sfruttare, abbiamo bisogno di credere più in noi stessi, cercare di andare tutti nella stessa direzione e non remare contro, avere un sistema paese che ci aiuti, che aiuti le imprese, che aiuti il sistema arredo, no? Ad andare. Noi sappiamo di essere bravi, ma insomma... C'è sempre bisogno di crescere, indubbiamente, quindi dovrebbe essere cose normali, queste di accompagnare le imprese, esatto, a crescere, a svilupparsi, ad approfondire appunto le qualità positive. Giovanni Anzani, dicevo presidente, amministratore delegato di Polyform, una delle maggiori aziende nel settore dei mobili, vicepresidente di Federlegno Arredo, presidente di Asso Arredo, quindi un impegno in azienda, un impegno anche associativo. Ecco, se dovesse descrivere in due minuti, in due parole, Polyform, un po' la storia e un po' come si sta muovendo adesso. Beh, due parole difficili, però diciamo che noi siamo subentrati alla prima generazione dei nostri genitori che avevano un'azienda in Brianza, che è, diciamo, il distretto più importante al mondo per quanto riguarda il design, l'arredo, che ci hanno trasmesso una cultura di fondo, cioè far bene le cose. Ecco, noi dal 1970 che con la seconda generazione, cioè con i miei soci Alberto e Aldo Spinelli, che conduciamo questa azienda, ci siamo posti molte sfide. Prima di tutto negli anni 70 di andare sul mercato nostrano, cioè in tutta Italia, essendo più arroccati sulla Lombardia e sul Piemonte. Poi negli anni 80 abbiamo cominciato a sentire un po' questa frenata, no, che si stava facendo sul discorso immobiliare, abbiamo cominciato a affrontare i problemi dei mercati europei. Poi negli anni 90 abbiamo cominciato ad affrontare i problemi del discorso internazionale, no? Quindi cercando sempre nuove strade per crescere in pratica. Assolutamente, cioè abbiamo allargato sia per quanto riguarda i mercati ma anche la produzione, perché prima facevamo, diciamo, le famose stanze, no? I tinelli, no? Siamo passati a fare appunto il living. Poi negli anni, fine degli anni 80, abbiamo acquisito un marchio Varenna, che è un'azienda storica brianzola che produceva le cucine di alta qualità, però concentrata prettamente a Milano, si può dire, e l'abbiamo rilanciata sui mercati internazionali. Oggi è una grande realtà in questa direzione. E complessivamente quanti dipendenti avete adesso? A tutt'oggi ne abbiamo circa 600 in Italia, un centinaio nelle associate commerciali all'estero. E in quanti paesi siete presenti? Come? Siamo presenti in 82 paesi, no? Per cui abbiamo anche 85 monobrand flash store in giro per il mondo, e cerchiamo di educare anche i nuovi paesi emergenti alla qualità dell'arredo italiano, del bello e fatto bene. No? Bello e fatto bene, infatti sono i due, lo slogan appunto. che sta portando avanti la stessa Confindustria, cercando di promuovere appunto questa area dell'export, che è una, non tanto un'alternativa quanto un complemento a un mercato italiano che continua ad essere abbastanza fiacco, anzi molto fiacco. Purtroppo sì. Ecco, torniamo alla Brianza. La Brianza ha un po' l'immagine di essere storicamente il distretto dei mobili, e lo è ancora adesso, dopo tutte le trasformazioni che sono avvenute negli ultimi anni. Si può ancora considerare un territorio geneticamente orientato verso i mobili? Assolutamente. Ma guardi, il discorso è storico. Cioè, quando i signori di Milano hanno pensato di fare le ville in Brianza, no? Fine 700, 800, chiaramente servivano poi... andavano arredate queste ville, e da lì che è cominciato diciamo, i contadini a imparare a fare degli oggetti in vimini piuttosto che gli arredi, i tessuti, no? Per, diciamo, arredare queste ville. Ecco, noi arriviamo da lì, da questa tradizione che ci arriva dal passato, con questa cultura sempre, no? del far bene le cose, no? E poi c'è stato il grosso evento del Milano, capitale del design. Di conseguenza i design italiani in primis, e poi a tutt'oggi quelli internazionali, che vengono alle nostre aziende in Brianza e lì riescono a realizzare quelli che sono i loro progetti, le loro idee, perché c'è questa, veramente questa cultura incredibile di lavorare tutti gli elementi, dal marmo al vetro, chiaramente il legno, alla plastica. Ecco, qui c'è anche molta innovazione. Cosa vuol dire fare innovazione in un settore in fondo tradizionale, dove all'apparenza un mobile è un mobile, un armadio è un armadio, un letto è un letto? Sì, però diciamo che negli anni le esigenze sono cambiate. Diciamo, se guardiamo nel mondo delle cucine, c'è tutta la tecnologia applicata all'elettrodomestico, per cui noi dobbiamo comunque passare, diciamo, a integrare questi elettrodomestici all'interno dei contenitori, e in più nuovi materiali che si affacciano, no? Oltre a quelli tradizionali del legno, del marmo piuttosto che dell'acciaio, ci sono questi nuovi agglomerati che consentono di abbattere i costi e di, diciamo, di poter avere una qualità, se vogliamo, anche più pratica. Anche, no? Una maggiore efficienza dei mobili, per cui comodità magari. Esatto. E quello che stiamo cercando è sempre di più di rendere l'abitare italiano sempre più confortevole, per cui cambiando appunto i materiali che ci vengono incontro, le nuove tecnologie che ci consentono non più di fare un prodotto seriale, ma di poter produrre in just in time, no? E assolvendo un po' questa funzione di personalizzare moltissimo quello che è il proprio arredo, per cui abbiamo una gamma di pelli, abbiamo una gamma di tessuti, di colori, di legni, no? E uno lì può scegliere poi con i vari moduli, con su misura, riesce a farsi una casa in funzione della propria area di gusto e se vogliamo anche di potere d'acquisto. E quanto influisce la moda, le mode, il fatto di avere un cambiamento di gusti, il fatto che va di moda, che so, il bianco piuttosto che il nero? Ma diciamo che sotto questo aspetto siamo un po' lontani. Direi che il nostro è un bene durevole, anche il costo che uno deve affrontare, no? Per cui c'è un'attenzione maggiore alla spesa. La moda intesa come cambiamenti non è così veloce o repentina, no? È chiaro che dobbiamo sempre cercare di anticipare i gusti che ci vengono magari influenzati dalla moda, influenzati da altri fattori, ma comunque rimane sempre un bene durevole. Per cui noi prima dobbiamo rispondere a un discorso di sicurezza, a un discorso di qualità, a un discorso anche di performance, comunque, certo, del prodotto. E poi bene durevole, se dura, vuol dire che è anche fatto bene. Quindi ecco, questo è un problema, sì. Una volta avevamo il tarlo che ci dà una mano, già sparito anche lui, per cui... Qual è il prodotto che ha dato più soddisfazione? Che so, una scrivania, una libreria, un armadio, un tavolo? Ma guardi, credo che noi abbiamo cavalcato un po' negli anni, no? Una volta, come citavo prima, si facevano le stanze, no? Era un sacrario quasi, no? In cui tutto era coordinato, tutto era perfetto. Abbiamo cominciato appunto negli anni Ottanta a fare un prodotto, un letto ghiro fatto dall'architetto Paolo Piva, come Morgana, no? Che è un altro prodotto che è stato un'eccellenza del nostro saper fare e che ha un po' rivoluzionato, diciamo, il discorso dell'ambiente notte, no? a che ne è seguito un discorso di contenitori, che erano gli armadi, che abbiamo poi evoluto, ci siamo staccati, no, da quello che era il legame col letto, abbiamo visto il contenitore, abbiamo ricercato e abbiamo fatto degli studi approfonditi anche per quanto riguarda il contenere. Siamo arrivati poi a fare a livello industriale la cabina armadio, che era un po' legato forse al mondo artigianale, per cui abbiamo innovato moltissimo. Abbiamo innovato anche nelle chiusure, con gli armadi scorrevoli a filo, gli armadi trasparenti, con l'armadio atmosfera che se accendeva le luci diventava trasparente. Quindi si può innovare anche in questo settore in maniera molto, molto significativa. Direi di sì. Rispetto agli anni 70 cos'è cambiato nel modo di fare impresa, di fare prodotti, di innovare? Diciamo che negli anni 70 forse era molto più facile, no? C'era un'economia che tirava, la gente era meno sofisticata, no? E avevamo anche degli spazi più grandi da arredare. Oggi dobbiamo assolvere tutte le funzioni dell'abitare in spazi più piccoli. Per cui ecco che ci dobbiamo concentrare in piccoli spazi tutte quelle sono le funzioni del contenere, dell'operare, del fare, no? E questo, diciamo, è stato un'evoluzione in questa direzione. Abbiamo dovuto rispondere a esigenze che cambiavano. Cioè, abbiamo passato dall'appartamento piccolo di una volta, che era 120-150 metri, a quello grande, 70-80 metri al giorno d'oggi, su una certa fascia. Mentre sui discorsi internazionali, il discorso cambia, diciamo lì siamo invece su dimensioni, potere d'acquisto completamente diversi, per cui... Cioè, quindi voi vi riferite soprattutto a una fascia alta di acquirenti, soprattutto sui mercati internazionali. Ecco, abbiamo parlato appunto della vostra presenza in più di 80 paesi, qual è il paese che vi ha dato più soddisfazioni? Beh, inizialmente era l'Europa in generale, no? Tutti i vari paesi in cui abbiamo... diciamo accettato le prime sfide per cercare di capire che quali erano le loro esigenze, il loro modo di vivere. Poi diciamo ad oggi è comunque il mercato americano, dove siamo molto conosciuti e vincenti su quello che noi chiamiamo forniture. Cioè lì nella cultura inglese gli appartamenti li danno già semi arredati, cioè, mi spiego, gli appartamenti hanno già compreso le cucine, gli armadi e gli arredi bagni. Stiamo parlando dell'Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Hong Kong, Singapore, Australia. Ecco, in questi paesi Polyform con Varenna, che è il marchio delle cucine, siamo stati protagonisti di successi molto, molto ampi. Ne cito uno per tutti, il Time Warner a New York, che diciamo sono le due torri principali, no? A Columbus Circle, dove noi ecco, abbiamo arredato. In questa direzione poi abbiamo fatto, sempre sulla 58esima strada, 938 appartamenti. E lì è stata la partenza di rendere credibile, perché comunque siamo un'azienda organizzata, un'azienda che è presente sul territorio, un'azienda che è comunque affidabile per qualità, ma anche per qualità della consegna, qualità del prodotto. Ecco, in questa direzione abbiamo avuto ottimi successi, per cui il mercato americano... per noi è sempre stato un mercato molto molto importante. Poi c'è stato il crollo della bolla, diciamo, edilizia. Quest'anno, per fortuna, abbiamo ottenendo... Sì, i paesi ottimo. Arabi, i paesi petroliferi, i paesi del Golfo? Per noi è un po' difficile. Noi produciamo prodotti di design, prodotti puliti, e diciamo lì va un po' il classico, va un po'... C'è un gusto un po' tradizionale. È un po' tradizionale, un po' con gli orpelli, con gli ori, tessuti magari molto ricchi, ma non è nella direzione di Polyform. Non lì ci avviciniamo, magari con le cucine e con gli armadi, ma è difficile. Incontri. ancora con la voce di Luciano Pavarotti, sempre un peccato interromperlo. Introduciamo questa nostra seconda parte dell'incontro con Giovanni Anzani, presidente, amministratore delegato di Polyform, vicepresidente di Federlegno Arredo, presidente di Asso Arredo. Abbiamo parlato nella prima parte dell'industria del mobile, della sua azienda, della Polyform, industria della Brianza, distretto ancora mobiliere, delle prospettive delle aziende italiane, delle difficoltà anche delle aziende italiane. Ecco, comincerei questa seconda parte lasciando un attimo la parola a Roberto Snyder, presidente di Federlegno Arredo, sull'ultima iniziativa che ha avuto il governo proprio rispondendo alle richieste pressanti che c'erano state dalla stessa Federlegno per aiutare in qualche modo questo settore, ma aiutando con questo settore anche l'economia italiana. Roberto Snyder. Ma guarda, io giudico molti positivi per quanto riguarda il nostro settore. Finalmente i nostri politici si sono resi conto che il nostro settore ha delle necessità e questa misura del bonus 50% va incontro a questa nostra esigenza per mantenere i posti di lavoro. Ecco, questo per me è molto positivo, purtroppo è la scadenza 12-2013, vedremo un po' cosa fare, vediamo un po' come vanno le cose da qui a fine anno e poi vedremo. Ecco, quindi è un bonus soprattutto rivolto alle imprese? Rivolto alle imprese, chiaramente nel caso delle ristrutturazioni delle case, poi vengono aggiunti oltre alle 96.000 euro già previsti dal precedente decreto e 10.000 euro per quanto riguarda l'acquisto dei mobili, quindi ci sarà un bonus di 5.000 euro. Grazie mille Presidente di essere stato con noi, grazie. Ecco, Presidente Snaio, quindi soddisfatto di questo risultato, davvero tutto del governo questo bonus, e chiedo a Giovanni Anzani anche di completare, un po' rapidamente abbiamo parlato col Presidente di Federlegno Arredo, di completare questa visione, quindi è un bonus non solo per le imprese ma anche per le famiglie, per i singoli. Direi di sì, diciamo che ma è un po' a 360 gradi se vogliamo, sicuramente avere un bonus di 5.000 euro in questi momenti non è da buttare via, direi che chi sta ristrutturando casa può mettere dentro anche diciamo l'arredo, no? Interamente, per cui avere questo bonus che vabbè, verrà ridato in 10 anni, ma comunque è molto importante. Direi che anche il governo, se noi riusciamo a tenere dentro le nostre fabbriche e i dipendenti, risparmia anche sulla cassa integrazione. In più non dobbiamo perdere anche, se vogliamo, nel mondo dell'artigianato, che poi può usufruire anche di questo, per cui tenere in piedi quelle piccole e medie imprese che stanno soffrendo essendo prettamente sul mercato interno e che però dobbiamo salvaguardare assolutamente perché hanno una ricchezza e una capacità del fare che non possiamo permetterci di perderlo. Quindi rimettere un po' in moto un circuito positivo che porta a rianimare un po' una domanda interna che soprattutto in questi settori di beni durevoli tende un po' a rimandare gli acquisti, si rimanda l'acquisto dell'automobile, si rimanda l'acquisto di un mobile anche, quindi sollecitare un po' le persone, le famiglie e le imprese a rianimare un po' il mercato. Diciamo è una piccola cosa ma che va nella direzione giusta, chiaramente dobbiamo rilanciare i consumi perché le imprese creano valore, creano posti di lavoro, creano benessere, per cui se il mercato immobiliare rimane fermo noi non possiamo andare poi ad arredarlo. Chiaramente il rinnovo, come ha citato lei prima, la gente in questi momenti continua a rimandare decisioni di acquisto in quanto non sta capendo cosa sta succedendo, è bloccato, ha paura, no? E di conseguenza rimangono quei 4 matrimoni e quei 2 divorzi, più di così non riusciamo ad andare. Per cui lo sfogo è di andare all'estero con tutte le difficoltà, però richiediamo appunto al governo di fare delle azioni anche un po' più forti. Noi sono anni che chiediamo, come in altri paesi, di poter dare una parte dei mobili cosiddetti fissi, cioè parlo delle cucine, dell'arredo bagno e degli armadi, di poterli mettere al 4%, con l'IVA al 4%, in modo che uno con l'acquisto dell'immobile, no, lo paga in 20 anni. Come se fosse 30 anni. Parte integrante. Esatto, che è una parte, come in altri paesi che citavo prima lo fanno già. Questo sarebbe veramente un rilancio molto forte in questa direzione, magari limitatamente alla prima casa, ai giovani, con tutti, diciamo, i filtri che quindi, vogliamo. Quindi è un secondo passo, è un fatto certamente positivo questo bonus che è stato introdotto per quest'anno, è una delle richieste che aveva Federregno Arredo sul fronte interno e quindi uno dei successi di Federregno Arredo. Ma ecco, sul fronte invece internazionale, sul fronte delle esportazioni, che sono altrettanto se non più importanti, che cosa chiedete? Quali sono i vincoli maggiori che vi costringono a non fare i passi un po' più lunghi? Il discorso di fondo è che vorremmo avere un governo che accompagni le imprese e le introduca, no, nei vari paesi, li presenta o quantomeno segnali le opportunità di business che ci sono in giro per il mondo. Sto parlando dell'ICE, che è stata riformata. Direi che abbiamo incontrato, sono del mobile, nuove dirigenze, direi gente molto preparata, gente motivata. Il problema è che non hanno fondi. Ecco, in questa direzione si può fare poco. Noi pensiamo di essere uno delle tre F del Made in Italy, no? Oltre al fashion, al food, lo siamo sulle forniture, poi magari abbiamo anche la Ferrari, però in questa direzione credo che dovremmo essere sostenuti, cioè un sistema che non ci remi contro, un sistema che non imbrigli le aziende, no? Con le burocrazie e con tutto il resto, ma bensì accompagni nei paesi dove c'è un forte sviluppo e ci aiuti a introdurre. Non possiamo pensare di andare da soli. Ecco, proprio il presidente dell'ICE, Riccardo Monti, è stato ospite di questo programma nelle scorse settimane e diceva proprio queste cose, in fondo sottolineando da una parte la necessità di mettere insieme le poche risorse, ma anche la grande passione che c'è nel coordinare appunto la presenza italiana all'estero. L'ICE ha avuto negli ultimi anni un po' di vicende anche un po' bizzarre, è stato chiuso, poi riaperto. Adesso sembra avviato verso una nuova formula, una forma di agenzia di coordinamento molto legato anche la presenza italiana nelle ambasciate con gli ambasciatori, quindi l'immagine del Made in Italy resta comunque un'immagine positiva, nonostante il paese, possiamo dire. Beh, direi che è un valore in assoluto che va difeso veramente a spada tratta, cioè, non capisco quei politici che per i propri fini di Cadrighino che rovinano l'immagine dell'Italia. Noi siamo in giro a vendere il Made in Italy con le sue eccellenze. Siamo un paese straordinario, un paese unico, un paese che tutti ci invidiano. Molto, molto complesso, e questo lo sappiamo tutti. Fare sistema di imprese è una cosa che, insomma, si fa fatica. Noi siamo fermi al 300 con il Palio delle Contrade, no? Però, diciamo, in federazione stiamo cercando di creare un modo, no, di muoversi sui vari mercati. Citiamo tutta una serie di iniziative che stiamo facendo sui vari mercati accompagnando gli imprenditori. Le cito l'ultima, che è quella del rilancio o comunque del far conoscere la qualità delle cucine italiane. Stiamo sviluppando questa comunicazione che abbiamo chiamata Cucine Anima Design. Cioè, noi siamo produttori di cucine, no? Ma intese non tanto come degli elementi per cucinare e basta. Noi, le nostre cucine, no, hanno dei contenuti molto più alti. Noi vendiamo un sistema di arredo, no, intorno al quale si fa da mangiare, che è diverso dal laboratorio solo dal cucinare. Per cui lo stile di vita che è italiano, che ci arriva dalla dolce vita, che ci arriva anche dalla varie tradizioni, che amano in tutto il mondo, no? Tutto il mondo ci invidia. Ecco, in questa direzione dobbiamo comunicare l'eccellenza del nostro saper fare. Se abbiamo un difetto noi in Italia è che non sappiamo difendere quello che abbiamo e comunichiamo male tutto ciò che abbiamo. Qualche volta ci facciamo male da soli nella nostra comunicazione. Purtroppo il peggior nemico dell'Italia è l'italiano, direi, in questa direzione. No? Ecco, io concluderei ritornando al Giovanni Anzani e alla sua impresa. Quali sono gli obiettivi a medio termine? Quali sono le cose che vorrebbe fare? Qualche successo che vorrebbe portare a casa? Guardi, il discorso è che noi abbiamo responsabilità sociale perché siamo appunto su 5 paesi, chilometro zero, per cui in questo cinque momento... 5 paesi della Brianza, dalla Brianza, paesi della Brianza, sì, noi certo. Siamo neanche Made in Italy, siamo Made in Brianza, no, per cui dobbiamo presidiare, no, e tenere dentro quelle che sono le nostre maestranze, perché comunque oggi purtroppo se uno esce dal sistema di lavoro va in cassa integrazione, c'è un problema strutturale legato un po' all'economia, no? gli obiettivi che noi ci prefiggiamo è di essere sempre più vincenti, far conoscere sempre di più le nostre realtà, perché dal momento che uno viene in azienda, che noi abbiamo per ultimo abbiamo fatto questo grande investimento che è il Polyfor Lab, dove abbiamo 3.500 metri di esposizione con delle sale riunioni, delle sale di formazione. L'anno scorso abbiamo avuto 4.000 ospiti da tutto il mondo, dove formiamo la gente, li informiamo, li prepariamo, facciamo capire il bello ben fatto, tutto diciamo quello che è. Quindi un salone del mobile permanente in pratica. Beh sì, noi cerchiamo di vendere il My Life, lo stile di vita di Polyfor, no? Che è uno del, pensiamo di essere uno delle eccellenze del sistema radio italiano. Ecco, il sistema radio italiano che comunque è una delle eccellenze, non abbiamo parlato del Salone del Mobile che è appunto la prima esposizione mondiale nel settore, che quindi è una delle rappresentazioni più evidenti del Made in Italy e delle potenziali successi del Made in Italy. Beh, assolutamente sì, ancora quest'anno siamo riusciti a portare da oltre 160 paesi, abbiamo avuto 330.000 visitatori e questo grazie ai contenuti che le nostre imprese, questo sforzo che noi facciamo, che ci viene bene, questo continuare a innovare su quello che era che già facciamo, ma ancora di più creare nuovi oggetti che fanno sì che ci rendono la vita sempre più facile e più comoda. E anche uno stile di vita, in fondo il Salone del Mobile non è solo una fiera, ma è anche un modo di vivere la città, come si è imposto negli ultimi anni. Quindi l'appuntamento è all'aprile 2014. Assolutamente sì, facciamoci gli auguri, direi che ancora una volta il Salone del Mobile rimarrà il numero uno al mondo. Grazie mille, grazie a Giovanni Anzadi, grazie al suo ottimismo e alla sua volontà, presidente e amministratore delegato di Polyinform, vicepresidente di Federregno Arredo, presidente di Assoarredo, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. Così come ringrazio Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione, vi ricordo che tutte le puntate di incontri, anche quest'ultima puntata, possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.